Bella zio, come va zio? Simo X ritorna sulla scena. L'hai saputo ed hai sentito un brivido lungo la schiena. E nemmeno una catena può tenere sto in sia bada. Sono rime più taglienti della lama di una spada. Vivo in strada e spingo a bomba questo mad boy sound. Solo sai, io non mi arrendo come never back down. Zero clown tra di noi, solo Cuba e room cooler. Quando Simo prende il mic fa paura come Freddy Krueger. Sembra il woofer, a voi vi vibrano le gambe. Simo X e Mad Boys, immortali come Highlander. C'è sangue nel quartiere malfamato. Fra, tu pensi che siano solo storie perché non ci sei mai stato. Io ho bruciato i miei neuroni con la musica elettronica. Passatemi cannoni, sono il re come Leonida. La botta è supersonica, io ancora non mi fermo. Simo X e Andrews Wright, qui scatenano l'inferno. Siamo contro il mondo, siamo contro di voi. Simo X, Andrews Wright, Bolzaneto, Mad Boys sulle mani fra, Genova è nostra, tu hai sparlato di noi, questa è la nostra risposta. Siamo contro il mondo, siamo contro di voi. Simo X, Andrews Wright, Bolzaneto, Mad Boys sulle mani fra, Genova è nostra, tu hai sparlato di noi, adesso hai preso una batosta. Prepara tutto, arrivo con i miei. Questo è il film della mia vita dove il solo tasto è play. Ok, mi piace fare solo quello che non posso. Fra, lo sai che le mie rime hanno sul bollino rosso. Fai il grosso ma davanti alla mia crew di inchini. Le mie strofe sono storie proibite per i bambini. Noi belini genovesi sempre duri su sta track. Amo solo una donna, la Maria come J-Ax. Io un brigante come Max, nella testa un solo motto. Odio il falso, odio l'infame, odio lo sbirro corrotto. Ti stai sotto, ti fotto con sto suono, ti calpesto. Stai all'occhio, i miei fra c'hanno l'alcol molesto. Io detesto sto mondo, sono contro tutti quanti. Ormai la vita gira intorno a droga e contanti. Sono in tanti che non dicono le cose in faccia. Fanculo, questa è la mia risposta sopra una traccia. Siamo contro il mondo, siamo contro di voi. Simo X, Andrews Wright, Bolzaneto, Mad Boys sulle mani fra, Genova è nostra, tu hai sparlato di noi, questa è la nostra risposta. Siamo contro il mondo, siamo contro di voi. Simo X, Andrews Wright, Bolzaneto, Mad Boys sulle mani fra, Genova è nostra, tu hai sparlato di noi, adesso hai preso una batosta. X, Andrews Wright, con X and Andrews Wright.